4 luglio alle 20, aggiornamento della situazione in Scozia. G8, in 3.000 la base militare di Faslane, Carnival of Fully Enjoyment a Edimburgo. L'assedio alla base scozzese di Faslane, dove si trovano i sottomarini britannici classe Vanguard che trasportano i missili nucleari Trident, ha riunito alcune migliaia di manifestanti. Ruth Tanner, il portavoce della campagna per il disarmo nucleare, CND, l'organizzazione che ha promosso la protesta, ha affermato che riguarda l'antimilitarismo e il G8, perché il 90% del commercio delle armi proviene proprio dai paesi del G8. La lotta contro la povertà va quindi di pari passo con la lotta contro la guerra e il finanziamento agli armamenti. Gli organizzatori sono riusciti a raggiungere la soglia che si erano fissati, 3.000 persone. L'idea è evidenziare il legame tra guerra e povertà e il modo in cui le forze armate sono usate per rafforzare la globalizzazione distruttiva, ha spiegato Josh Garman, il coordinatore della manifestazione. Secondo alcune agenzie di stampa, un uomo è stato arrestato per essere salito sulla recinzione di 10 metri che delimita un deposito di carburante. A due giorni dal G8 di Glen Eagles si sono riservati alcune migliaia di partecipanti al carnevale per la gioia piena nelle strade di Edimburgo. Ad accogliere i Pink, migliaia di poliziotti in assetto di guerra, molti a cavallo. Il nervosismo delle forze di sicurezza che circondano ogni gruppo di manifestanti è palese. Non si registra nessun incidente, ma sono numerosi i negozi con le serrande abbassate. Nonostante questo stato di assedio, circa 200 dimostranti sono riusciti a raggiungere un edificio del centro finanziario che ospita gli uffici della compagnia di servizi Standard Life. Erano più di 225.000 i manifestanti che ieri, vestiti tutti di bianco, hanno creato un lungo serpentone che si è snodato nelle vie della zona vecchia della capitale scozzese per protestare contro il vertice G8 che si terrà a Glen Eagles in Scozia dal 6 all'8 luglio. Il vertice sarà presieduto dal primo ministro britannico Tony Blair, che ha posto l'Africa e l'azzeramento del debito al centro dei colloqui. Denaro prestato spesso dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per corrompere i dittatori africani. Denaro che non doveva essere richiesto. Il controvertice riunisce ad Edimburgo associazioni, ONG e movimenti sociali. La marcia ha rappresentato solo una delle prime forme di protesta di questa settimana scozzese che si preannuncia intensa. Blocchi, sit-in, azioni non violente, conferenze e laboratori si alternano ad Edimburgo, Glasgow e alcuni luoghi limitrofi come Stirling, sede del Foro Rurale. L'obiettivo della protesta è quello di far arrivare alle orecchie dei capi Stato del G8 il rifiuto ad una politica internazionale improntata su guerre preventive e mercato selvaggio, inflessibile nel non garantire diritti ai lavoratori e che registra fra le sue maggiori voci il commercio di armi. Il clima gioioso dei manifestanti si scontra con l'allarmismo delle forze dell'ordine, che paventano azioni violente da parte di non ben specificati anarchici. Proprio per contrastare l'atteggiamento delle autorità, alcuni manifestanti hanno distribuito piccoli manuali su come comportarsi in caso di arresto preventivo. Più di 10.000 poliziotti, 6.000 direttamente da Londra e 4.000 dal Galles, sono impiegati ad Edimburgo per arginare il pericolo anarchici. Un corteo non autorizzato come il Carnival of Fully Enjoyment deve considerarsi un evento pericoloso, ha tuonato Ian Dickinson, vice capo del Dipartimento di Polizia della capitale scozzese. Donald Anderson, leader del City Council, aggiunge: crediamo che ci possa essere un gruppo minoritario venuto per causare problemi. Crediamo anche che la polizia sia in grado di arginarlo. Molti commercianti hanno sbarrato le vetrine dei negozi con assi di legno, in pieno allarme stile Genova. Qualche scaramuccia c'è stata in zona David Hume Tower, dove la polizia ha formato una linea cercando di chiudere alcune centinaia di manifestanti. Alcuni manifestanti sono stati picchiati perché stavano uscendo dal gruppo unico dei partecipanti al controvertice. Il gruppo, fuggendo, è passato per una terrazza di un ristorante. Gli avventori, seduti a tavola, più che allarmati, sono sembrati divertiti e amichevoli. La polizia, in tenuta antisommossa nella zona dell'università, ha indossato caschi e maschere antigas. Dall'altra parte della Scozia si sono tenute proteste contro la base navale di Faslane, dove alloggiano i Trident, sottomarini armati con missili balistici intercontinentali. I leader del G8 parlano di sconfiggere la povertà nel mondo. Noi gli dimostreremo che lo stanno facendo attraverso la guerra e il commercio di armi, ha detto Josh Garman, uno degli attivisti impegnati nella protesta. In tutta la giornata di domenica non c'è stato nessun arresto. L'allarme è scattato, almeno fino adesso, al sapore di una caccia alle streghe. Rimanete informati e visitate la pagina di Indymedia.